America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Gran quantità di eventi culturali italiani ieri a New York. Pensate, nella stessa giornata abbiamo avuto l'inaugurazione di una mostra di Giorgio Morandi al CIMA, che è il Center for Italian Modern Art. Abbiamo avuto un concerto con musicisti alla Scala alle Nazioni Unite con il nostro ambasciatore Sebastiano Cardi, il rappresentante permanente italiano che ha fatto da ospite. Una mostra sull'Italian Heritage al Metropolitan Museum con il sindaco De Blasio. E l'apertura, e secondo me questo comunque è l'evento più importante della giornata di gran lunga, l'apertura al Guggenheim Museum di una retrospettiva dedicata ad Alberto Burri. Ho fatto qualche chiacchierata in questo museo, sentiamo questa con Emily Brown, che è la curatrice della mostra dedicata a Burri. Burri fu un artista molto ben noto in America negli anni 50 e primi anni 60, e poi altri movimenti, altri artisti hanno preso l'attenzione, però c'era sempre la conoscenza di Burri, soprattutto i suoi sacchi, e ormai capiamo che Burri è un artista che va oltre i sacchi, il tema per esempio del monocromo. Questo monocromo materica con i neri, con le plastiche, con gli ultimi cretti e cellotex. È un artista che ha quasi reinventato l'idea del monocromo e che ha proprio reinventato il collage in un modo più grande, più affettivo, e quindi ha lasciato un'enorme eredità. Ecco, Mimi Brown, devo dire, è una delle più grandi curatrici, una delle più grandi esperte d'arte moderna negli Stati Uniti. Ha lavorato in questo caso come curatrice esterna, non fa parte dello staff del Guggenheim, insegna storia dell'arte a Hunter College, ma anche se la Brown non fa parte dello staff, beh, è una cosa fondamentale, una cosa importante secondo me, è che il Guggenheim torna sull'Italia, sul contributo che la nostra cultura e il nostro paese hanno dato all'arte moderna. Ieri, invece, si è aperta questa grande retrospettiva Trauma of Painting, dedicata appunto a Burri, e Burri è un pioniere del modernismo e delle tendenze artistiche del dopoguerra. Mostra grandissima sia per l'ampiezza della retrospettiva che per il respiro che la Brown ha dato a questo allestimento. Wienerville è ben noto qua in America sotto l'etichetta Elmer's Glue, È una cosa che usa bambini anche per colare, ma Burri ha usato questo prodotto abbastanza nuovo nell'epoca del subito dopoguerra come collante, ma anche come un vernice, un qualcosa anche di mettere rigido i tessuti e anche materia del fluidi del corpo, per esempio. Tutti questi effetti sono fatti con Wienerville, che si secca trasparente e quindi rassomiglia molto i fluidi del corpo, ma anche lui l'ha usato come un binder, diciamo in inglese, un collante. E quindi i cretti, per esempio, sono fatti con bianco zinco combinato con Wienerville per fare questa pasta, e poi questa pasta dopo ore, giorni, anche una settimana si forma in questa craquelure. Ecco, in tutto questo devo dire c'è da apprezzare la continuità con cui il Guggenheim esplora il ruolo di artisti del nostro paese nel panorama culturale americano e globale. Ecco, devo dire, mi spiace a volte ascoltare commenti riduttivi di alcuni critici in Italia su allestimenti di questo genere organizzati in America. Il più tipico: su Burri abbiamo fatto mostre molto più complete noi in Italia, cosa vogliono insegnarci gli americani? Ma è possibile, magari le avremo anche fatte, ma la qualità di una mostra non sta solo nella quantità o nella location, ma nella ricostruzione di un percorso storico, artistico, cosa che la Brown tra l'altro riesce a fare con rara maestria. Ma soprattutto vale il contesto in cui questo questo avviene. Un passaggio per il Guggenheim diventa un passaggio per la consacrazione globale, per l'artista ovviamente, ma anche per l'immagine del nostro paese, che fatica a volte a tenere testa nel conflitto multiculturale tipico della globalizzazione, in cui tutti, dall'Asia all'Europa, al Sud America, fino agli Stati Uniti, sgomitano per assicurarsi una preminenza di qualche genere. Ecco, il Guggenheim in qualche modo ha portato l'Italia, attraverso Burri in questo caso, alla ribalta. E dunque non è un caso se aziende illuminate, perché lo sono, devo dire, in un panorama italiano che non è molto sensibile alla filantropia, appoggiano queste mostre. Per esempio la Lavazza, che è il principale sponsor di questa mostra, era stato anche uno dei principali sponsor della mostra, tra l'altro, sul futurismo. Oppure la MAPEI che è il produttore di Vinaville. Benissimo, ne ha una ricaduta commerciale, ma che ce l'abbia. Ma quello che è importante è che il Guggenheim mostri questo volto dell'Italia che molti non conoscono. Ci sono molti privati che hanno appoggiato questa mostra: Pilar Crespi Robera, Baronessa Zerilli Merimò, Alberto Giulietta Vitale, Isabella del Frate Raibun, Edmondo Di Robilan, Marco Voena. Insomma, potrei continuare. Ma sentiamo perché un'azienda sente la necessità, il bisogno di, per esempio, sponsorizzare un evento artistico come questo. Sentiamolo da Francesca Lavazza. Sicuramente per parlare di arte, per parlare di Italia, per parlare della capacità degli italiani, delle imprese italiane in questo caso, di poter continuare a crescere, ma non solo attraverso delle partnership di business, ma anche delle grandi partnership culturali. Per cui sicuramente l'Italia c'è e l'Italia vuole farsi sentire anche attraverso la voce dell'arte. Nell'arte e ovviamente nel creare un linguaggio distintivo investiamo da moltissimo tempo, ma non solo. È da più di 20 anni che lavoriamo con i più grandi fotografi del mondo, quindi affidando la nostra marca e il nostro prodotto al talento e alla creatività di questi grandi fotografi, e l'abbiamo utilizzato proprio per parlare a livello globale della nostra marca, quindi unendo l'arte a un linguaggio di advertising, di pubblicità, proprio per raccontare una marca in modo un po' non convenzionale. Ecco, a me piacerebbe molto che ci fossero una gran quantità di aziende che facessero una gran quantità di eventi artistici di alto livello, di livello globale di questo genere, che passando per New York, per l'America, sia poi un riscontro globale. Ecco, ho chiesto a Francesca Lavazza cosa si può fare perché l'esempio che hanno dato loro, la MAPEI ed altri, possa essere seguito. Sentiamo. È importante farlo ed è importante che altri capiscano che questa è la direzione da tenere. È importante che questa nostra partecipazione crea proprio un benchmark, come fossimo degli apripista, e che altri capiscano e si innestino in questo modo di approcciare e di fare, proprio per creare sistema. Un sistema Italia che deve portare, come sempre, l'arte al primo posto. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di Alberto Burri, grande pittore italiano. Lasciamo che Neil Young, e con la sua canzone fantastica, The Painter, il pittore, gli dedichi la canzone del giorno. The painter stood before her. She saw the pictures and she painted them. She picked the colors from the air, green to green, red to red, yellow to yellow in the light, black to black. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!